Suppongo abbiate partecipato anche voi a rianimate polemiche sul grande raduno degli alpini nell'ultimo weekend qui a Milano. Alla radio in pratica non si è parlato d'altro, trascurando argomenti di minore importanza come la mancata elezione del Presidente della Repubblica, e non soltanto in onda. È un problema che ha appassionato un po' tutti e ha suscitato ogni sorta di preoccupazioni. E a prescindere da pochissimi campanilisti sfegatati, compiaciuti con un atteggiamento vagamente sportivo per come Milano abbia surclassato Roma, che di fronte ai 400.000 alpini in festa ha saputo mettere in campo soltanto 150.000 miserabili sostenitori del servo di Dio José María Escrivá y Balaguer, e a prescindere da quei pochi redattori eletti in consiglio comunale che non lo dicevano ma in parte erano responsabili o corresponsabili delle autorizzazioni al megaraduno concesse dalla giunta precedente, i pareri ascoltati almeno fino a tutto venerdì erano quasi sempre negativi, anche se il campo valori utilizzato a Uopo è stato particolarmente ricco e articolato. Occhio e croce, ho fatto un po' di statistica, direi che le classiche motivazioni antimilitariste erano per lo più assenti. Le preoccupazioni erano divise piuttosto in tre gruppi principali: c'era chi si preoccupava per l'igiene pubblica, paventando la quantità di deiezioni e di escrezioni di tanti bipedi in plumi provvisoriamente senza fissa dimora e costretti ad arrangiarsi come potevano, per di più si trattava di bipedi in plumi forti bevitori che aggravava la prospettiva. Poi c'era chi si preoccupava per il verde pubblico, che prevedeva calpestato e diverto da tende, automezzi, scarponi chiodati e altri strumenti dei difensori delle frontiere della patria, e c'era chi si preoccupava soprattutto per gli alpini in sé, considerandoli una specie umana particolarmente temibile, pronta all'alterco e alla rissa, anche per via del tradizionale fiasco di vino, intollerante dei cittadini d'aspetto vagamente effeminato o di quanti fossero propensi a esprimere sentimenti di solidarietà internazionalista, per non dire degli extracomunitari e di altri elementi atipici rispetto alla gloriosa tradizione del Piave. A posteriori possiamo tutti compiacerci della scarsa fondatezza di tanti timori. La città non è stata sommersa dai liquami, il verde pubblico non sta poi peggio di prima, anche grazie al provvidenziale acquazzone di domenica sera, ma un po' perché, come ci hanno spiegato tutti, gli alpini hanno un'innata coscienza ecologica e non sono usi devastare l'ambiente in cui si accampano, anche se si tratta del Parco Lavizza. E soprattutto le nostre penne nere si sono rivelate molto meno tozze di quanto temevamo. Non si sono lamentate incidenti di nessun genere con gli elementi, diciamo, atipici della fauna urbana. Anzi, tra gli alpini da una parte e i lavavetri magrebini dall'altra non sono mancate manifestazioni di stima e rispetto reciproco. Io stesso che abito in una zona che di notte non è propriamente frequentata bene, posso testimoniare di commoventi scene di fraternizzazione notturna tra delegazioni motorizzate di alpini cunesi e cadorini e i professionisti brasiliani e uruguaigi che ivi allignano. Professionisti cui venivano offerti liberalmente e senza secondo fine alcuno interi bottiglioni di vino e che a loro volta erano contentissimi di mettersi in posa con il tipico cappello con la piuma d'aquila in testa in mezzo a gruppi di veci e di boccia vocianti. Tutto bene, dunque. Nessuno, a dire il vero, nessuno si è chiesto o ci ha spiegato perché mai fosse necessario portare a Milano 400.000 ex alpini e passa e costringervi a tre giorni di vita randagia e disagevole in un ambiente ostile a una temperatura canicolare, senza rispetto per l'età che in molti casi era piuttosto avanzata. Se proprio qualcuno sentiva il bisogno di questa specie di festa del corpo, se gli alpini sono un corpo e non qualcun altro dei tanti possibili raggruppamenti di cui si compiacciono le alte e basse sfere militari, se qualcuno ne sentiva il bisogno, tanto valeva ambientarla nei maestosi paesaggi montani, tra le nevi eterne, i pascoli smeraldini e le aspre giogaie, in cui gli sciagurati avrebbero potuto dare la miglior prova di sé e dimostrare di che cosa erano veramente capaci. Perché, diciamocelo francamente, organizzare un raduno di alpini a Milano è un po' come fare una parata navale con corazzate, incrociatori e tutto il resto in piena pianura, o meglio ancora in mezza collina. È una cosa che si può fare, certo, Fitzcarraldo ha fatto di peggio, però ci sono mezzi più razionali per dilapidare tempo e denaro. Ma soprattutto la cosa che mi ha fatto impressione è che nessuno si è chiesto a cosa servono in generale gli alpini. perché non è mica tanto facile, guardate, sì, in teoria è un corpo armato specializzato nella guerra in montagna, ed essendo il nostro paese interamente separato dai confinanti da un'imponente catena di montagne, appunto le Alpi, che come dice il poeta Italia chiude i suoi termini bagna e funge da tradizionale, sia pur non efficientissimo, sbarramento agli aspiranti invasori, hanno la funzione di difendere i confini dai malintenzionati. L'Italia ripudia la guerra, si può permettere soltanto qualche operazione di polizia internazionale, per cui forse sono più utili altre specialità militari, ma considera la difesa della patria e dei confini della patria un sacro dovere del cittadino, ergo servono gli alpini. Ma il problema è di contro chi devono difendere la patria costoro. Se percorriamo la catena delle Alpi in direzione ovest-est, secondo la nota formula scolastica ma con gran pena le reca giù, troviamo una preoccupante scarsità di aspiranti invasori. Si comincia sulle Alpi Marittime con i francesi, che sono i nostri tradizionali alleati, con cui non abbiamo il benché minimo contenzioso, e comunque sono dotati di una marina, potrebbero benissimo invaderci via mare. Visto che le nostre forze navali, chissà perché, sono tutte praticamente schierate sul versante dell'Adriatico e fanno capo al porto di Taranto, per cui... Poi ci sono gli svizzeri, che sono un popolo pacifico quant'altri mai, pochissimo propenso a un'invasione che comporterebbe la crisi rovinosa di tutto il loro sistema bancario, che notoriamente nel nostro ceto, sia a livello politico sia a livello industriale, ha la clientela più affezionata. E poi c'è l'Austria, che sì, è il vero nemico tradizionale, ma allo stato non soltanto è neutrale, ma è addirittura smilitarizzata, e naturalmente se di una cosa non si può fare a meno per combattere è la disponibilità di un esercito disposto a farlo. E infine tra il Giù, tra le Alpi Carniche e Giulie, una volta c'era la Jugoslavia. La Jugoslavia andava bene, era l'avanguardia, era una nota avanguardia dell'impero del mare, nonché una possibile via d'accesso ai cosacchi in marcia per abbeverare i cavalli in piazza San Pietro, ma adesso la Jugoslavia non c'è proprio più. C'è la Slovenia, paese a noi legato d'amicizia fraterna, anch'esso privo di esercito veruno, e comunque per tenere lontano dalla patria gli eventuali sloveni malintenzionati basta il cambio della lira sul tallero. Quanto ai cosacchi, sappiamo tutti che quei pochi cavalli che ancora gli rimanevano se li sono mangiati arrosto durante l'ultimo inverno. Insomma, cittadini, guardiamoci negli occhi e facciamo fronte alla dura realtà. Gli alpini non servono assolutamente a niente, non servono a un tubo. Forse è proprio per questo che gli fanno fare i raduni annuali nelle condizioni più disagiate possibile, perché non si deprimano troppo. E anche perché, conciati come siano, con lo spettacolo indecoroso che dà la nostra classe dirigente, i valori un po' rustici della sana tradizione montanara, mi piace del vino lassù delle montagne, cosa comanda sciur capitano, viva l'Italia, sono sempre meglio di niente. Capirete, per chi ha cercato di riciclare Forlani, cosa volete che siano gli alpini? I'm not superstitious. No doubt that there's a reason how things turn out. While things are changing from day to day, well, I keep this feeling with me all the way. And I want you to know that you're on my mind every day, all of the time. So keep on walking that road and I follow. Keep on calling my name, I'll be there, yeah. And if the mirrors you break, it's easy to take. Deep down I know that you can. Well, I'm not superstitious,